강. 어휘. 아. 건. 다. 디. 인. per. senza. su. tra. bagno. banca. burro. cane. capitale. carne. cassetto. cielo. finestra. gatto. giornale. grammatica. lavoro. letto. luna. mediterraneo. nuvola. occhiali. occhio. penna. porta. quaderno. scuola. sedia. segretario. soldo. sole. stella. tavolo. telefono. terra. vino. blu. bravo. facile. lontano. prodotto. seduto. vicino. adesso. invece. qui. 문형. È bella quella ragazza con gli occhi blu? È bellissima. Gli studenti del professor Kim sono bravi? Sì, sono bravi. Qual è la capitale d'Italia? La capitale d'Italia è Roma. Dove sono gli occhiali? Sono sul letto. È lontana la scuola? No, è vicina da qui. 대화. Dov'è il sole? Il sole è dietro la nuvola. Dove sono le stelle? Le stelle sono nel cielo di notte. Dov'è la luna? La luna è tra la terra e il sole. Dov'è la penna? È nel cassetto. Dov'è seduta Giorgia? Giorgia è seduta dietro a Laura. Invece Silvio? Silvio è seduto davanti a Massimo.